però visto che sento che si può riformare già, e allora la terapia la devi continuare e farla con precisione, con assiduità, quando c'è un obiettivo dei medici. La terapia te la dà per prevenzione, Giulio, perché devono aspettare 5 anni prima che si possa riformare, o dirgli direttamente che non è più nulla, che sei tranquillo, ma devono passare 5 anni. Però la terapia te la fanno sempre per tenerti sotto controllo, e quello lì è normale che ti tengano sotto controllo dopo quello che è avvenuto. Ti auguro che non sia niente di preoccupante, dai. Magari sono cose che possono passare. Noi purtroppo siamo in questa terra e diciamo che la vita è un po' crudele, con chi ha lavorato specialmente tutta la vita, la cui, bah, vabbè, dai. E infatti a me la prima cosa che mi hanno detto, ma lì fumava, infatti io non ho mai fumato e non ho mai bevuto, per cui, ma se che piacere faceva, facevo un falegname, ma quello mi hanno detto, cosa ne so, già, purtroppo faccio tanto, quando i mali vengono, chiaramente devi cercare di curarli, ma quando è possibile, se quando non è possibile, pazienza, e non avevo il bar, destino è destino. Ognuno di lui ha il destino segnato, io a quello ci credo, quindi magari non credo ad altre cose, però al destino di una persona ci credo. Dal primo momento che una persona nasce ha il destino segnato, puoi vivere a lungo, puoi vivere poco, puoi vivere invecchiando proprio tantissimo, tutto nella vita è possibile. Però, bisogna avere anche un bel po' di fortuna, diciamo, per vivere veramente a lungo. Vai. Sì, è tutta una questione di fortuna, anche col coronavirus è questione di fortuna, perché ho sentito gente che si metteva la mascherina, eccetera, eccetera. Questa credo, poi c'è chi abbia sbagliato una volta che mi sono toccato a lui, che mi abbia pregato quella volta lì, però io sempre metto la mascherina quando vado a fare la spesa, sono meticolosa, mi disinfetto le mani, tutto quanto. Eppure se l'ha presa lo stesso, è un'attrice questa qua che l'ha intervistata. Purtroppo è una questione di fortuna nella vita, dai. Se tocca a te, tocca a te e basta. Tu pensi sempre, non se non toccherà sempre a me. Invece molte volte, vedi, anche io mi sono preso il diabete, non è che l'ho presa molto bene quando ho saputo di averlo, l'ho presa molto male, ma che io non mi volevo fare insulina, che questo e quell'altro, che mi stavo festando, facendo qui, ho pensato, bisogna vivere la giornata, bisogna convivere con la malattia e basta. Adesso io sono tranquillissimo, non ci penso nemmeno, non mi ne ha più trattato, se più ci penso peggio è. Ah beh certo, quello sì, bisogna andarci sereno, se no uno non vive bene, ci mancherebbe altro, non basta il problema, poi anche l'umore, no, devi essere tranquillo, però tutti hanno un carattere. Di rimanere sereni, dai, ci sono quelle persone che hanno un po' più di paura, premesso che la paura ce l'hanno sempre tutti indecisamente, non mi dicano di no, perché la paura, però ci può essere quella persona che è un po' più coraggioso e va bene così, per dire no, ma e poi la paura si sa, la paura fa parte dell'umanità, o già, hanno paura gli animali, figurati se non hanno paura le persone. A Lugrino, a Maragana, e quando uno ha un problema, oi. E vabbè, comunque succede, dai, speriamo bene la vita, cosa vuoi che dica già. Solo Dio sa quello che ci spetta, dai. Purtroppo così, è tutta fortuna, e vabbè, speriamo che nel cultivo della nostra vita siano rose e fiori, che ci lasci vivere almeno sedili, non dico tanto felici, ma almeno sedili. Sì, infatti, quello che conta quello già, certo se uno pensa che ha lavorato una vita intera, per poi ammalarsi, non è certo piacevole, però purtroppo succede alle persone, succede così alle persone. Ripeto, io spero sempre di stare bene, di stare a pace. saprà il Padre Eterno cosa vi aspetta, tuttavia non so cosa dire. Papà, c'è qualcuno che cerca di mettere la porta, non faccio mancare luce. Non lo state che mangio appena tre fatto, quanto è buco questo baracchino, questo vintage. E vabbè, c'è qualcuno, i soliti malati sono già, ogni tanto già se ne verifica qualcuno. E via. E vabbè, deve essere, non mi piace un discorso in sì. Probabilmente sì. A proposito, come ti arriva questo baracchino? Già, dai un'occhiata, se puoi, e non pazienza, non fa niente, di segnale perlomeno. Vediamo un po' con questo baracchinetto vintage di 48 anni fa, 49 anni fa. 6925. Allora non è poco, non sono i soliti 930, però diciamo che non è poco, 925. Va ugualmente bene, dai. E la radio è abbastanza forte, o devi per forza aumentare il volume per ascoltarmi, visto considerato che sto usando questo microfono così, che non è suo tra l'altro. Ma è solo questione di tempo, perché quando compro lo spinotto ci metto l'amplificato. No, Giulio, sì, quasi 9.30, sì, 9.25 è passato, quasi 9.30, sì. Sì, 9.30 è spiccato, ma sì, Billy, capito, adesso mi ha messo gli occhiali apposta. E cosa ti stavo dicendo? Io quanto ti sto arrivando con quell'apparecchio lì, quello è sordo. A fondo scala già, sto portato a fondo scala, è nel rosso proprio. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo. Chi è avanti? Io Antonio sono, ciao a tutti, ci sentiamo dopo. Ciao, tu vai a fare il pieno, vai. Ciao Giulio, buonasera, ciao. Ciao, saluto a tutti, andiamo a mangiare. E andate, ciao. Ciao a tu, buon appetito allora. E le 8 sono quasi, mi sa, le 8 o 2 minuti, che capita. E vabbè, fa un po', bisogna andare a cenare, dai. E così è. Mancare tu del portale già. E certo che sì, adesso mi sto alzando per portare. Tanto sono già vestito, non mi ho messo manco di giallo. Mi sono vestito ancora e non faccio che mettermi giù poco e sono già a posto. Ok, le 8 sono, meno 2 minuti. Meno 2 minuti, anche di meno di 2 minuti ci vogliono le 8. E vabbè. Dopo guardiamo un po' il telegiornale, vediamo un po' i contagi, come sono andati oggi. Anche quello bisogna tenersi aggiornati, soprattutto qui in Sardegna, visto che noi viviamo qua in Sardegna. Vediamo un po' quanto c'è nel riserva oggi di contagi e soprattutto di quanti morti ci saranno. Questi accidenti del virus si voleva, porca miseria, ma quando mai doveva nascere questo virus? Comunque, speriamo bene. Io l'ho sentito a Luna e ha detto che le cose stanno migliorando, che anche nelle zone di Milano e cose del genere devono dare un altro colore, zone più rosse, ma forse giallo mi pare, perché stanno migliorando la situazione, sta migliorando, capito? Quindi ci sono meno morti, meno ricoverati, pian piano non stanno ricoverando nessuno, quindi le cose stanno andando meglio, come hanno fatto, che hanno permesso questi limiti. Però poi adesso a Natale, adesso se tu guarda, io l'altro giorno sono andato a Fontanilla, avevo necessità di andare perché dovevo andare a mettere il gas alla macchina e ho approfittato e sono passato da lì da Fontanilla pensando di trincare per andare a casa, invece ho fatto una cosa sbagliata, un traffico guarda, era pieno, zeppo di gente che andava e che tornava sia da una parte che dall'altra, file di macchine allucinanti. Dai, già ti devo lasciare che devo mettere il pellet, perché ci vuole pellet per la stupazione di specie, dai. Ci sentiamo, poi tanto sono già le 8, per cui è già ora di cena, anche se non meno per me. Ci sentiamo alle prossime già, grazie della chiacchierata, che abbiamo passato una serata facendo quattro chiacchiere, e va bene così, sono contento, ci sentiamo alle prossime. Ciao Claudio, ci sia l'ascolto. Aspetta. A alle frusti, mi ascolto finale e poi chiudo già. Devo mettere il pelle che non la stufa, se non si spegne, dai. Vai Claudio. Ehi, sono passato per Giulio, sono rientrato. Sono passato alla trascrivania. Ciao Giulio, buona serata, grazie di tutto e poi ci aggiorniamo telefonicamente. Ti tengo informato per quella radio, vai già. Ehi, ah, ciao Giulio, buona carica, quando la fai buona continuazione di serata. Grazie Filippo, se ho, a domani. O stasera, non lo so, vediamo cosa c'è per il visore stasera. Avanti, oh Claudio. Se non vuoi solo un tipo, non si dica bombolino stasera, boh. Aspetta, bicicletta, non si è sentito per niente. Ehi, già, se non l'hai portato ti conviene portare il cane. Adesso non sta piovendo, non c'è neanche tanto freddo. È andato sto qua, sto preparato, mi sto mettendo la roba a posto che ho tolto. Sta andato. Ehi, ti conviene andare adesso perché non sta piovendo, perché aspetta, non c'è. C'è ancora più freddo, dai. Vabbè, già sono qua io, mi metto nuovamente il pigiamone. A dopo. E vediamo, secondo cosa c'è anche il visore, accendo la parata. Via, va bene già. Avanti, Muros. Benissimo, 9:15, radio 5. Non so se Gianni ti sente bene lo stesso, io di radio ti sento bene. Il segnale è il tuo, normale, senza avere, senza essere agganciato. Vai, Gianni. Via, ciao. Ruggito, buonasera, provo a vedere, e non ci permetto di segnare, ti do la radio in 3, là. Non è fortissimo, però ti ascolto. Poi a Gaudia, ottimo, ottimo per la truppa, no, sta arrivando benissimo, 9:15, radio 5 perfetta, e adesso ho cambiato un po', tutta la sera col baracchino, adesso ho cambiato base, sono sull'altra scrivania. Sta andando molto molto bene qua. Mi hai detto che radio è? Dai, io vado qua, ciao. Io glielo ho detto, sì, Gianni è andato a portare il cane. Sì, glielo ho detto, appena mi posso un po' allontanare da casa, è già pronto. Ho fatto una pulizina, appena mi posso allontanare da casa glielo saldo, ho capito, così dovrà una controllata, vediamo un po'. Perché voglio che funzioni anche quello. Non ho questo tranquillo che non c'era nessuno. Faiette, come state, poi c'è tutte le scritte, come state, 23 marchi 6, no, questa c'è il connettore su originale 4, punto accende, sicuramente c'è qualche valvola da controllare, qualche transito, qualcosa, capito, però io non essendo competente in materia non tocco niente, quindi volevo toppare, già c'era già lui, questo è introvabile, sì, è prima degli anni 70, penso che sia molto molto vecchio. Lafayette Comstat 23, non 25, 23 Mark 6. È molto bello anche di esteticamente, più bello del 25B, mi piace di più. E poi è un ottimo stato, va bene. Ora io te l'ho detto, no, non è che sto lì a dire balla, ti mando la foto, la vedi, che su questa base, quindi non c'è problema, poi una radio mi ha fatto avere Giulio, quindi non è che sto raccontando balla, sto facendo tutta quella base lì, che è più di 2 metri, capito? Quella sto facendo tutta vintage, solo base, però 2,20, alimentatori non lo voglio mettere, capito? E qua invece dove sto trasmettendo adesso ci sono gli HF. E basta, perché altrimenti si confondono, quella parte lì è tutta con i microfoni da tavolo, ne ho preso altri 2 microfoni, un altro l'ho trovato su internet, un Tamek P3 grigio americano, nuovo, anche ad un prezzo meno di 100 euro, e quello volevo collegare e fare le connessioni appena arriva per il Pony. Perché il Pony, non avendo mic gain, ha bisogno di un microfono che spinge, capito? E quindi non è portato più tre. E poi gli altri, c'è il microfono della Gain, c'è il microfono della Perception, gli altri sono tutti MB+5, MB+4, tutti, ognuno c'ha il suo microfono. Ognuno c'ha il suo microfono. E va bene, vai. Mi diverto, io tutta la sera, non so se stavi ascoltando, sono passato adesso con K, giusto per farlo andare un po', ma questo non ha bisogno né di scaldare né di niente, perché ho buonasera anche a te, Rodro Claudio, a tutti e due. Antonio da Sassari, buonasera. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Allora, quella radio lì, siccome è stato modificato il trasformatore, come mi hai detto Giulio, allora 180, capito? A 180 volte non ha bisogno di trasformatore a 115 o a 110, perché la presa va a 180, è parato a 180 volte il trasformatore, capito? Perché si era bruciato, mi stava dicendo, quindi li ha rifatto lui, però anziché se è 220 era a 180, va bene lo stesso, non è un problema. Poi comunque se abbiamo il trasformatore, ci mette il trasformatore nuovo direttamente a 220, non è che siamo lì a cincischiare. Mi pare che qualcosa c'ho anche io, adesso non lo so, devo vedere bene dentro l'armadio qua. Ok, ti passo il cambio per i saluti a Antonio Bombolo, avanti. Cappa, buonasera anche a te, buonasera. Oggi stasera ti sento un pochettino più bassino, ti sento, ma stai usando una radio un pochettino più o meno performante, no? Io ne ho bisogno di che attacchi niente, sì, 9,15 abbondante, quindi non c'è problema, va più che bene. Antonio è quasi 9,20, quindi no, non problema, vi ascolto bene entrambi, non ci sono problemi. E allora Antonio, come mai così tardi siete a oggi? Perché stavo lavorando e poi visto che non c'è acqua ci siamo presi le pizze stanotte. Non so, infatti con mio cognato ci avevamo un appuntamento al notaio per fare l'atto di Viale San Francesco, siamo passati lì per consegnare le chiavi e non c'è l'acqua neanche lì, non c'è acqua neanche in Viale San Francesco, non così, non lo so. Quelle zone, quando manca l'acqua, la zona bassa, del monte basso e il monte alto, non ho voluto la prima che va via. No, noi non abbiamo problemi perché siamo serviti qua da via Milano, quindi solo quando fermano a Troncoreale, per la zona bassa non pompa Ponte Rosello lì e automaticamente si ferma tutto, capito? Tutto quello non c'è acqua. Vediamo Claudio se ha collegato, avanti Claudio. No, Claudio non ha collegato, riprendi Antonio. La voce è ancora peggio, dove abitavo prima. Oh, mamma mia, mamma dei turchi qua. Cosa capo l'abbiamo, cosa ha fatto, infatti pure loro sono ancora così, pure papo è così, un casino. Ma, no, qua quando arriva però, non ha problemi. È ancora peggio. Perché stanno, te l'ho detto, stanno facendo lavori a Troncoreale. Automaticamente quando spengono le pompe di Monte Oro, non manda a Troncoreale, Troncoreale non potabilizza e quindi non manda acqua a Ponte Rosello. E si ferma tutto il sistema, tutto l'impianto, capito? Mentre noi invece Monte Oro manda al vascone di via Milano, il vascone di via Milano che quando rimane pieno l'acqua nella zona alta c'è, se è chiaro si svuota anche il vascone che rimane 24 ore o 48 ore senza acqua, senza mandare, senza riempirsi, allora non c'è acqua neanche qua. Però quel vascone è talmente grande che riesce a servire anche 24 ore di non arrivo, riesce a servire tutto il quartiere, capito? Per quello non ci manca noi, comunque perché ci ho lavorato, quindi conosco perfettamente tutto il sistema. Vediamo Claudio, avanti. Sì, 9,20 abbondante, quasi 25. Sicuramente è un po' più bassina però. Sempre bassa, vedete ti sta mangiando un po' la radio lineare. Vediamo Antonio intanto se ti ascolta bene. Per me non c'è problema, ti ripeto, puoi rimanere anche così, no? Non problema, vai Antonio. Non li sta mangiando la radio secondo me non pompa proprio l'apparecchio, non pompa il radio, perché a me guarda, questo è un apparecchio omologato normale e vedo che il radio esce un po' meglio qua. Ah, ma già ti sento, però ti sento basso di radio a confronto ti sento basso di radio. A me bene, mi senti a muros con questa radio. Sì, K. E io sto usando un apparato di nuova concezione, dai. Sto usando un M790 Plus. Va bene. Nuovo, appare apparecchio nuovo. Sì, grazie per me, che fa, mi devo allontanare che c'ho mia moglie mi sta chiamando, ti faccio in compagnia di Antonio Bombolo, ma sono qua comunque, magari rientro tra un attimo, ok? Avanti Antonio. Sì, capa, non c'è problema, oh. Ok, non c'è problema. Esci che mi metto la sedia. Oh, yeah. Come la catria, come diciamo noi a Zazzari. Avanti, ca. Cappami. Quando ti arrivo lì a Muros 9, così mi hai detto. Pura mare. Non è poco, no. Già va bene. Io sto utilizzando questa qua un anno, di concezione nuova questa radio. C'è anche l'SP, mi ha spiegato, solo che non va bene perché un pochettino rientra. Non ho mai capito come mai. Cappa, guarda, ti batto l'SP, cosa senti? Il rumore senti? È innesco. Cappa, no, pure io già ti ascolto. Chi è che voleva entrare? Avanti. C'era qualcuno che voleva entrare. Cappa, ma stai uscendo con molta potenza? Sì, non è male, appena di radio di... Però già va bene, dai. Ma cos'è tettaggico, dai? Quanto li stai dando a quell'affarino? Più di 5 non li devi dare? Massimo 5, 6, boh. Li devi dare così perché sennò non va più bene. Non deve superare i 10 watt. Aspetta che... 2 secondi. Ehi, ho risposto un amico mio, ho risposto. Mi ha mandato una bucaria, mi ha mandato. Una scena, eh. Eia, Claudio, mi senti? Sì, che ti ascolto, Cla. Eia, Luia, esci con i occhi. Ah, la postazione. Ehi, cappa. No, già va bene, ma nelle altre radio, forti, di che sono forti di radio. Prova a attaccare a vedere come arrivi, se è meglio o peggio. Ok, già sono qua. Beh, Luca. Beh, sentiamo dopo. Ok. Avanti l'ottici. Capra. Andava, forte chiasso. Egare, avanti. Hola. Egare che fruscendi, anche. Cazzo se ti ascolto, questa è una bomba, stai innescando, stai, ma non è che è stazionaria o hai qualche, dico, o c'è qualcosa di attaccato, rispettivamente tutti a posto sono. Cappa, perché poco fa hai fatto 2 inneschi, com'è che non ritorno di RF, capito, ma le stazionarie ce li hai a posto, stai innescando, ma cosa c'hai, il microfono amplificato o microfono normale? No, del radio va benissimo, adesso non è la batteria scarica. Cappa, e allora, non è batterie quadrate da cambiarle? Io ho il DM1000, non succede. Non è altri microfoni con quella radio, cazzo, la radio è splendida, solo che non c'è batteria. Secondo me è proprio il rumore che non c'è batteria, poi se non lo vedi salire è proprio così. Sì, ma non si può tenere, Ocra. Non si può tenere perché è proprio scarica sicuramente adesso. Sta fischiando, innescando a morte. Cappa, adesso va benissimo, non ha problemi. Cappa. Io ce l'ho sempre qua di scopo. Vabbè, io non è che ne uso tanto, lo uso solo sull'Alfa Yeti Zeus, lo utilizzo. Non è che ne uso tanto di pila, Io più che altro lo utilizzo solo sull'Alfa Yeti Zeus. Questo è normale, l'altro è normale, cioè sono tutte radio normali. Cappa, ma su 40 io non sono da un po' che non ci entro. Ma su 45 sta entrando gente. Cappa. Aspetta, spengo questa luce. Sì. Ma io ci ho provato un po' di volte, Non sento nessuno. Non sono riuscito, quando c'ho l'antenna qua non sono riuscito a fare un DX. Cioè, allucinante. Davvero? Cappa. Va vero. E che, avanti. Ciao Claudio, chiudo Arrugginito, vai. Ti saluto, Massimiliano da Quetta, ciao, tu ero di passaggio, vai, sto scendendo già a mangiare. Ci sentiamo alle prossimine, miau. Ciao Cla, mandami il numero poi su Messenger che me lo segno, Cla. Così ti posso mandare qualcosa su Motorzappa. Ok, ciao ciao, buonasera, avanti Antu. Anch'io chiudo. Ok, buonasera a te e a Claudio. A tutti e due. Ciao ciao, ci risentiamo.